Savonarola, il frate che sollevò Firenze. Prose scelte, un programma prodotto da Davide e Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che fu massone a Firenze nella loggia Concordia, e lette oggi da me, che in quella stessa Firenze non mi hanno mai preso neppure nei lupetti e la Concordia l'ho vista cappottata all'isola del Giglio. D'altra parte, duro con duro non fa buon muro, e chi va al canto al Giglio e non inciampa può ir sicuro in Francia. Serio. Capitolo 12. Il Regio Bello. Dopo la morte di Lorenzo dei Medici e la elezione del nuovo Papa, le cose d'Italia avevano rapidamente peggiorato. Il Borgia, divorato dall'ambizione di creare uno Stato ai suoi figli, volgeva l'occhio avido di preda ovunque vedesse un principe debole o pauroso. Faceva e disfaceva trattati, amicizie e giuramenti. Avrebbe messo l'Italia e l'Europa intera a qualunque cimento pur di ottenere i suoi fini. Nemmeno pericolosa era l'indole di Lodovico il Moro, dominato dalla paura e dall'ambizione nel medesimo tempo. Il suo nome era conosciuto in tutta Italia per doppiezza e malafede. I trattati da lui giurati erano alla prima opportunità violati. Anzi, nel momento stesso che li segnava, studiava fra sé il modo di romperli quando un'occasione lo richiedesse. Si vantava d'essere il più astuto uomo d'Italia e non aveva mai posa nel mulinar sempre nuovi disegni e nuove trame per raffermare il suo stato, spegnere i suoi nemici, crescere la sua potenza. Quando egli era poi assalito dalla paura, allora tutte le facoltà della sua mente crescevano di forza e venivano in una specie di convulsa attività né veramente umana che potesse prevedere i partiti a cui egli era allora capace di ricorrere. Sfortunatamente per lui e per l'Italia, la paura dominavalo appunto in quel tempo di cui ora discorriamo e lo teneva continuamente sospeso. La signoria di Milano era stata da lui crudelmente usurpata al nipote Giovan Galeazzo, che egli teneva prigioniero a Pavia, non senza sospetto d'amministrargli lento veleno. Quel giovane infatti era già debole, malato e ogni giorno più esausto di forze. Esso non era perciò capace di fare alcuna resistenza al Moro. Ma sua moglie, Isabella d'Aragona, figlia d'Alfonso di Napoli, non sapeva tollerare la violenta usurpazione dei loro diritti, la umile e trista condizione a cui erano condannati. Ella empieva perciò dei suoi rammarichi tutta Italia, invitava continuamente il padre e l'avo perché venissero a vendicare le ricevute ingiurie e a rimettere lei e il marito nei loro stati. Il re Ferdinando e suo figlio Alfonso, signori d'un vasto reame, superbi del nome acquistatosi nelle armi per le guerre avute contro i baroni e per l'assedio di Otranto, trattavano il Moro con un alto disprezzo, lo chiamavano nei loro dispacci il duca di Bari o anche messer Lodovico e di continuo minacciavano di andare a torgli l'usurpata signoria per rimettervi la figlia. Non è descrivibile in quale stato si trovasse allora il Moro e che disegni passassero per l'animo suo. Se egli avesse potuto dar fuoco all'Italia e al mondo per salvarsi da questa paura, non avrebbe certo esitato un momento. Lorenzo dei Medici aveva al suo tempo mostrato una grandissima prudenza nel mettersi fra queste due parti e, restando neutrale, mantenerle amiche con una specie quasi d'equilibrio politico, per cui allora fu chiamato l'ago della bilancia d'Italia. Sin dal 1480 egli aveva con un trattato riunito le corti di Napoli, Milano e Firenze e di poi, col piegare ora da un lato ora dall'altro, aveva sempre impedito che questa alleanza venisse sciolta. Ma dopo la sua morte si vide subito le cose mutare aspetto, onde il primo pensiero del Moro fu di sperimentare in qualche modo l'animo dei suoi nuovi alleati. Propose adunque che nella elezione del Borgia gli ambasciatori delle tre corti entrassero contemporaneamente in Roma e, come amici riuniti, si presentassero al Papa. Ma Pietro de' Medici, avendo stabilito farsi capo di una solenne ambasceria fiorentina, di cui già aveva apparecchiato la pompa, indusse il re di Napoli a trovar pretesti per negarsi alle proposte del Moro. Ed il re prese subito questa occasione per ferire il suo nemico personale, dimostrando nel medesimo tempo che egli lo faceva per secondare i desideri di Piero. Di quanto sospetto un tal fatto empiesse l'animo del Moro, non è facile immaginarselo. Ben presto però, egli si dovette anche a vedere che questi erano segni di una discordia assai più profonda e che egli si trovava ora isolato in Italia, giacché gli Orsini, i quali ricevevano condotte dal re di Napoli, erano già riusciti a tirare Piero dei Medici dal loro lato. Questo fece sì che il Moro cominciasse a pensare deliberatamente ai casi suoi, né mai potesse fermare l'animo suo fino a tanto che non si fu deciso di invitare i francesi a venire alla conquista del regno di Napoli. E in tal modo cominciò quella serie di lunghe calamità che per tanti secoli desolarono l'Italia e vi distrussero ogni prosperità di commercio, ogni cultura di lettere e di scienze, ogni aura di libertà. Il Moro fu, certo, la colpevole occasione che dette principio a tante sventure, ma a torto si è accumulato sul suo nome un odio infinito, facendo l'autore di quei fatti le cui vere cagioni erano di lunga mano già apparecchiate e dandogli così una importanza storica che egli non merita neppure nel male che ha fatto. La vita troppo attiva ed irrequieta dei tempi passati aveva logorato l'Italia, che si trovava nel secolo XV invecchiata ad una vecchiezza precoce, divisa e debole. E intorno a essa crescevano già degli stati grandi, forti, pieni di gioventù e di vita. Il turco era nel vigore della sua potenza, aveva già messo piede in Europa e minacciava per mare e per terra l'Italia e tutto l'Occidente. La Spagna aveva unito i reami di Castiglia e d'Aragona, cacciato i Mori e già attraversato l'Atlantico, guidata dal genio e dall'ardire di Colombo. In Francia Luigi XI aveva, col suo ferreo dispotismo, abbassato l'aristocrazia e sollevato il popolo, dato ordine alla finanza, unità alla nazione, allargato nei confini sul Reno e sui Pirenei, mentre l'estinzione della casa d'Angiò faceva ricadere nei re di Francia il Ducato, la Provenza e tutti i diritti che gli Angioini vantavano sul Regno di Napoli. La Germania, sebbene apparisse infiacchita sotto il debole ed incerto governo di Massimiliano, aveva pure le sue forze nazionali più che mai vive. Gli svizzeri, finalmente divenuti la prima fanteria d'Europa, si tenevano pronti a scendere formidabili dalle Alpi per chiunque li pagasse. Il sentimento della propria forza, il desiderio d'avventure, il bisogno di civiltà e, più che ogni altra passione, una certa gelosia nazionale spingeva tutti questi popoli verso l'Italia. Non le sapevano perdonare che ancora fosse maestra al mondo, che ancora la gioventù muovesse da tutte le parti d'Europa per accorrere nelle sue università, che sempre fosse la sede unica delle arti e delle lettere, che in tutte le corti ognuno si studiasse di imitare i modi e la lingua italiana, che gli scrittori, gli artisti, i filosofi, i medici, gli astrologi, i navigatori d'Italia avanzassero ancora tutti gli altri nella gloria come i signori e i mercatanti li avanzavano nelle ricchezze. Ciò faceva nascere come un misto di amore e di odio che spingeva verso di essa tutte le altre nazioni d'Europa. Era divenuto inevitabile che l'Italia spargesse nel mondo i semi della sua civiltà e non avendo ormai forza di essere conquistatrice, bisognava che fosse conquistata. L'impresa d'Italia era infatti divenuta la crociata del secolo XV. I capitani e gli uomini di Stato ci vedevano una preziosa e facile conquista. I dotti ci vedevano il mondo della scienza e dell'arte rivelata all'Europa. I soldati sognavano il sacco dei tesori raccolti nei palazzi e nelle ville italiane, tutti il bel cielo e le ubertose campagne. Ma quello che fra tanti popoli sembrava allora destinato a passare le Alpi era senza dubbio il popolo francese. La sua posizione nel centro d'Europa e ai confini d'Italia, la sua indole, il suo stato politico e militare, tutto insomma lo chiamava a essere primo in quel gran moto che doveva col dar morte all'Italia portar vita all'Europa. Si aggiungeva a questo l'essere allora salito sul trono Carlo VIII, che non aveva più di 22 anni ed era pieno di uno strano desiderio di avventure. Debole di complessione, piccolo di statura, d'aspetto quasi deforme, conosceva appena i caratteri dell'alfabeto, non aveva né consiglio né prudenza, era avido di comandare ma incapace di ritenere coi suoi alcuna maestà. Egli veniva sempre aggirato da uomini di basso lignaggio, i quali, ottenendo i suoi favori, salivano alle più alte dignità dello Stato, e costoro eccitavano di continuo la sua puerile ambizione di imitare San Luigi di Francia e di rendere immortale il suo nome con una crociata contro i turchi, di cui la conquista di Napoli doveva essere il primo passo. Mentre essi cercavano così di indurlo a far valere quelle ragioni che dalla casa d'Angiò si credevano scadute alla corona di Francia, gli esuli napoletani stavano sempre ai suoi fianchi per ridestinare manifestare queste medesime ambizioni. I principi di Salerno e di Bisignano, scampati alla strage dei baroni, non si fermavano mai dal parlare contro il crudele dispotismo di Ferdinando e d'Alfonso. Dipingevano il partito angioino potentissimo nel regno e assicuravano che il re sarebbe ricevuto a braccia aperte da tutto il popolo. Ed invero a tutti era noto lo stato infelice dei napoletani e il desiderio di un qualunque mutamento, per quanto potesse dagli esuli essere esagerato, era pure assai universale. Riguardando poi al resto d'Italia, si vedeva che la venuta dei francesi era assai più desiderata che temuta da tutti quelli che amavano la libertà. L'indole facile e pieghevole di quel popolo, l'incerto e l'imprevedutto che si trova sempre in quel carattere, facevano sì che ognuno aspettasse da loro quello che desiderava, onde non v'era popolo oppresso o repubblica tiranneggiata che non sperasse con la loro venuta sollevare le sue miserie. Già Luigi XI era stato più volte da vari partiti invitato a venire in Italia, ed ora che Lodovico il Moro mandava i suoi ambasciatori per tentare l'animo di Carlo VIII, sembrava che neppure i governi gli fossero contrari. Sia che Alessandro volesse spaventare il re di Napoli per offrirgli poi la pace a miglior prezzo, sia che si fosse lasciato aggirare dalle arti sottilissime e dalla politica astuta del Moro, certo è che anch'egli incoraggiava la venuta dei francesi. Onde riesce assai singolare il pensare come questa invasione straniera, cagione a noi di tanti mali, fosse in quel momento da quasi tutti gli italiani desiderata e dai francesi contrastata. I baroni di Francia, infatti, radunati a consiglio, s'erano apertamente dichiarati contrari ad un'impresa che giudicavano inconsiderata e pericolosa. Non doversi fidare, dicevano essi, negli aiuti d'un alleato come il Moro, d'un papa vario e mutabile come il Borgia, le armi del re di Napoli non essere spregevoli e la Francia esausta di danari non avere alcun mezzo per sostenere una lunga campagna. In fondo diffidavano più di tutto del loro medesimo re, che non tenevano capace a condurre un'impresa di grave momento, ma egli sprezzava i loro consigli e lasciavasi guidare da due uomini che non si intendevano né di guerra né di stati. Uno di essi era Stefano di Vere, in origine cameriere ed ora maresciallo Beaucaire. L'altro era Guglielmo Brissonnet, che da semplice mercatante era salito a essere generale di Francia e ministro delle finanze. Costoro, per la speranza di nuovi guadagni e per le promesse del Moro e del Papa, erano i soli che favorissero allora la guerra e la persuadessero a re Carlo. Egli licenziò finalmente dalla sua corte gli agenti del re di Napoli e mandò 4 oratori francesi a riconoscere le intenzioni dei vari stati italiani. Questi invero non trovarono alcuna simpatia nei governi. La Repubblica di Venezia era neutrale, Piero dei Medici tutto amico degli aragonesi, ed anche il Papa, dopo aver invitato i francesi, voltando faccia, s'era unito a Napoli. Al re Ferdinando, quando la sua fortuna cominciò a pericolare, non poté mai riuscire, malgrado le molte promesse, guadagnarsi l'animo del Borgia, onde egli moriva il giorno 25 gennaio del 1494, tormentato da rimorsi atrocissimi che lo lacerarono crudelmente nelle sue ultime ore d'agonia e col dolore di lasciare la sua famiglia in procinto di perdere il regno. Dopo una vita lunga e piena di prosperità, egli, secondo l'espressione di uno scrittore contemporaneo, finiva sine lux sine crux. Suo figlio Alfonso si apparecchiava però con tutte le forze alla guerra e mentre raccoglieva i soldati e metteva in ordine le navi, era riuscito a tirare dal suo lato il pontefice con la somma di 30.000 ducati pagati a lui e larghi assegnamenti fatti ai figli. Ma se gli oratori francesi trovarono che tutti i governi italiani, eccettuatone solo il Moro, erano divenuti contrari alla venuta del re, videro invece che le popolazioni si tenevano sempre assai favorevoli. A Firenze, soprattutto, dove il Savonarola invitava apertamente dal Pergamo il nuovo Ciro a passare i monti, la pubblica opinione si mostrava senza ritegno favorevole ai francesi e contraria a Piero de' Medici. Questi aveva dovuto confinare in alcune ville i suoi medesimi cugini che s'erano dati al Partito Popolare ed avendo mandato in Francia ambasciatori a difendere e scusare appresso il re Carlo la sua politica, essi invece si manifestavano quasi tutti avversi al governo mediceo. Era viandato fra gli altri Piero Capponi, il quale, essendo stato sempre uomo di partiti risoluti, consigliava al re di cacciare via di Francia i mercatanti fiorentini e con questo grave colpo agli interessi materiali della Repubblica far sollevare tutto il popolo contro i Medici.